Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 14. The No Frontier. Anche quella domenica iniziò come ogni altra domenica era iniziata da secoli e secoli, almeno dal punto di vista astronomico. Il sole sorse sempre ad est, le sveglie dei bravi cittadini suonarono puntuali e i coscienziosi galli cantarono almeno tre volte. Quel che non si era mai visto prima, invece, era quel caos di auto presidenziali blindate che, fin dalle prime luci dell'alba, affollavano Piazza San Pietro. Bandiere di ogni nazione sventolavano sui cofani tirati a lucido delle berline. Drago e Mirko, affacciati alla finestra degli ex appartamenti papali, si divertivano a riconoscere le più insolite, gareggiando a chi ne indovinava di più. «Ma sono così pochi?» Mirko non era convinto che il pianeta fosse più o meno governato da quella manciata di individui. «Le nazioni ufficialmente riconosciute sono circa 200, ma quelle che davvero contano si contano sulle dita di una mano, scusa il gioco di parole. Certo che da oggi in poi quelle che contano sul serio si conteranno sul mio dito medio». Drago alzò in alto la mano destra, mostrando il simbolo universalmente riconosciuto in ogni lingua. «Va bene, facciamo felici questi coglioni, portiamoli al centro della civiltà come noi oggi la conosciamo», disse, e insieme all'arcangelo si avviò per celebrare quella piccola riunione tra amici e compagni di merende. Nella Basilica di San Pietro le telecamere per tenere aggiornato in universo visione il resto del mondo erano state già piazzate discretamente nei punti strategici. Mirko prese posizione in un balcone sulla destra della navata principale, da dove avrebbe potuto osservare con comodità tutta la scena. Drago diede ordine alle guardie svizzere di fare accomodare i moderni monarchi in ordine di importanza, partendo dalle file più vicine all'altare. Voleva vederli in prima fila, guardarli negli occhi mentre gli impartiva i suoi ordini. Dopo aver atteso che tutti si fossero sistemati nelle proprie posizioni, salì sulla scaletta che aveva fatto predisporre e prese posto sulla maestosa cattedra di San Pietro, dietro l'enorme baldacchino, in quel luogo dove re e imperatori si erano inchinati ed erano stati incoronati. Una volta pronto, fece aprire la tenda che aveva fino ad allora celato la cattedra ai presenti. La visuale che gli si spalancava davanti era magnifica. Chiunque si fosse seduto lì, dominando con lo sguardo l'interno della basilica, si sarebbe sentito un dio. La luce che pioveva dall'alto della cupola e filtrava attraverso le vetrate rendeva l'atmosfera simile a quella di una gigantesca astronave diretta verso altri sistemi solari. Alle sue spalle la luce irrompeva attraverso la vetrata mosaico che raffigurava la colomba dello Spirito Santo. Sotto di lui, in penombra, vedeva le teste dei potenti, quelli che, fino a pochi giorni prima, avevano avuto nelle proprie mani i destini di miliardi di persone. Questa volta non aveva preparato un discorso preciso, si sentiva ormai sicuro di avere in mano la situazione. Voleva lasciarsi trasportare dall'ispirazione del momento e assaporare ogni istante. Accese il Devil, nonostante il silenzio che regnava nella basilica fosse già il segno della avvenuta sottomissione. Nel momento stesso in cui la funzione d'onda iniziò a propagarsi, si udì il familiare suono di ossa che cozzavano sul pavimento. Mirko azionò l'interruttore che dava inizio alla trasmissione via satellite. Il monitor piazzato davanti all'altare papale si riempì del viso di Drago. «Miei cari, le nazioni, come le conoscevate, non esistono più. Tuttavia mi torneranno utili i vostri servigi per governare il mio nome e per fare in modo che i miei ordini vengano adempiuti in ogni parte del mondo. Voi che avete cercato il potere, che avete lottato, tramato, comprato e venduto e a volte dato la morte per il potere, diventerete come le dita della mia mano. Sarete gli strumenti della mia volontà e nulla più. Ora ascoltate quello che voglio da voi. Inizieremo con due semplici rivoluzioni. Come prima cosa, aboliremo i confini fra le nazioni. Appianeremo le differenze, incoraggiando le migrazioni dai posti dove c'è scarsità di acqua e cibo e aiutando coloro che desiderano trasferirsi altrove. Il nuovo mondo non vedrà più persone morire di fame. Il vostro compito come governanti dei vostri territori in mio nome sarà quello di evitare la formazione di vecchi e nuovi ghetti. Dovrete fare in modo che questo pianeta diventi una unica grande nazione. La nuova televisione e le radio, oltre alle scienze, insegneranno e diffonderanno la futura lingua comune. L'inglese è semplice, diffusa e universalmente accettata ovunque come lingua franca, quindi diventerà la lingua principale. Non permetterete il formarsi di territori, neanche di un quartiere di città, dominati da una singola etnia, religione, lingua, tradizione, ideologia. Il passato finisce ora e la storia termina con esso. Vedremo se mescolando l'ignoranza produrremo intelligenza e se continuerete a farvi le guerre mischiati fra voi. Se una cultura ha bisogno del governo per non soccombere, allora significa che è già morta. Non ci saranno più privilegi e trattamenti di favore. Nessuno dovrà più essere in grado di sottomettere qualcun altro, né dal punto di vista politico, né da quello economico, né tantomeno religioso. Il lavoro sarà retribuito in beni e servizi. Chi avrà bisogno riceverà secondo il suo bisogno. Non ci sarà necessità di imporre alcunché, perché grazie al mio verbo ognuno farà la sua parte volontariamente. Rivolse lo sguardo in direzione di Mirko, anche se non riusciva a vederlo. In ogni caso l'arcangelo veglierà sul vostro operato e chi non farà la sua parte conoscerà la mia collera. Guai ai furbi, guai ai falsi. Fece una pausa osservando il tappeto di nuche immobili. Gli venne in mente Robespierre e per un attimo desiderò averlo accanto a sé. Il secondo cambiamento che dovrete operare nei territori che governavate fino a ieri sarà più semplice. Chiuderemo i moderni lager, le fabbriche di bistecche, i campi di sterminio animale, gli incubi in batteria dove si stermina in modo scientifico. Chi vorrà allevare animali lo potrà ovviamente fare, ma solo per sé e la sua famiglia. Chi vorrà cacciare o pescare lo potrà fare, ma lo farà ad armi pari. Le armi da fuoco a quest'ora sono state eliminate o rese inutilizzabili. Inizieremo la coltivazione dei deserti, la produzione di cibo da distribuire equamente a tutta l'umanità. La terra appartiene al genere umano. La madre terra non è di nessuno. Tutti posiamo i piedi su di essa e tutti ne usufruiremo in ugual misura. Il Devil ronzava sommesso. Al solito era l'unico suono udibile oltre le parole di Drago. Non mi illudo certo che tutto cambi in breve tempo. Io conosco voi e la natura umana, ma ora le vostre scelte sono piuttosto limitate, e questo forse vi farà avanzare verso la direzione giusta. Guardò dritto in camera. Non c'è altro da dire. La riunione di oggi è terminata. Usate questa domenica per meditare sulle mie parole. Non dimenticate che vi osservo. Andate ora. Comunista! Gli sibilò in faccia Mirko, ridacchiando ma non troppo, appena furono di nuovo soli. Comunista un cazzo! Non siamo tutti uguali! No, socio, qui ti sbagli. Per loro io sono l'indiscutibile verità. Io sono il dogma incarnato, l'ente supremo. Io sono colui che verrà ricordato in eterno quando sparirà. E quello che ho detto è semplice buonsenso, non è roba da bolscevichi. Come? Mirko non era sicuro di aver capito bene. Cosa vuoi dire che sparirai? Credi forse che voglia perdere tempo tutta la vita dietro questi caproni? Quando le cose avranno iniziato ad ingranare e andare avanti da sole, io me ne voglio andare. Voglio un'isoletta tutta mia, un posto dove passare i miei giorni ascoltando il rumore dell'acqua, in piacevole compagnia, circondato dalle cose che amo. Mirko annuì, ma allo stesso tempo non era del tutto convinto. Ma poniamo per un attimo che tu fallisca o che le cose non vadano come vorresti. Allora dovrai continuare a essere Dio per tutta la vita? Drago sospirò profondamente guardando una nuvola di passaggio prima di rispondere. Ascolta, la scatola dei giochi del piccolo Gesù non mi divertirà in eterno. Ma tu hai capito perché faccio tutto questo? Almeno tu lo capisci, vero? Io sono stanco, sono stufo marcio di leggere orrori e ascoltare orrori, sapere che esistono orrori e vivere in mezzo a questi orrori. Se non riusciremo a cambiare questo cazzo di mondo, allora che vada tutto a puttane, lo farò esplodere come un palloncino. Sai che perdita per l'universo, altro che comunismo, che vadano tutti a fare in culo. Lo schermo che fino a pochi minuti prima aveva mandato in onda il discorso di Drago ai capi di Stato trasmetteva ora una sonata per pianoforte e violoncello di Chopin. Il pianista assomigliava di ossido. Per un attimo si fermarono ad osservarlo senza che nessuno dei due trovasse il coraggio di parlare per primo. Fu Mirko a rompere l'imbarazzo. «Che ne dici se io tornassi alla Resi a vedere come vanno le cose, così, per qualche giorno?» Sarei di ritorno prima di domenica prossima. Direi che è un'ottima idea e che mi piacerebbe venire con te, ma non posso mollare adesso, ci sono troppe cose a cui devo pensare. Darò subito le prime disposizioni su cosa trasmettere alle radio e alle televisioni, anche se poi te ne occuperai tu quando torni. Vorrei anche scendere di nuovo in incognito tra la gente. Locker è sempre pronto e magari, se ci riesco, vorrei farmi un paio di tuffi in qualche bel mare caldo. Allora, quando trovi un bel posto, mandami Locker che ti raggiungo. Sarà fatto, socio. Troverai anche un bel contorno di compagnia adeguata. Finalmente, eccolo il vecchio Drago. Ok, restiamo in contatto allora, mi raccomando, fai il bravo. Ci proverò, ma non garantisco, disse Drago battendogli una mano sulle spalle. E tu, stai attento, è pieno di pazzi là fuori. Si misero entrambi a ghignare come ai vecchi tempi mentre percorrevano la navata centrale verso l'uscita al sole. Drago tornò verso quelli che per anni erano stati gli appartamenti papali. Ora erano la dimora del dio. Mirko prese una Mercedes-Benz trovata nell'autorimessa pontificia e si diresse verso la città. Non aveva mai guidato un'automobile così lussuosa. Si stupiva che tutto quello splendore fosse stato a disposizione di chi predicava in nome di Cristo. Nonostante avesse visto il lusso del Vaticano, era meravigliato di essere seduto in quella che sembrava la macchina di un magnate d'industria o di un finanziere d'alto bordo. Ogni dettaglio suggeriva l'esclusività e l'appartenenza a un'élite irraggiungibile per qualunque comune mortale, figuriamoci per i poveri del terzo e del quarto mondo. Prese fra sé la decisione di trattare quella macchina come qualunque altra macchina da quattro soldi che aveva posseduto fino ad allora, e tanto per gradire sputacchiò sul cruscotto in radica. Si sentì immediatamente meglio. Seguì le indicazioni per l'autostrada A2, incurante del traffico caotico. Il tempo era come sospeso ora che era da solo con i suoi pensieri. Gli sembrava di stare in piedi sugli argini di un fiume e osservare la corrente che impercettibilmente si rafforzava. Non voleva affrettare le sue mosse rischiando di essere trascinato via. Pensò a Diossido, sperando che l'amico non si fosse dimenticato di portare sempre con sé l'antidevil e soprattutto che l'avesse usato al momento giusto. Doveva trovarlo, raccontargli tutto quello che aveva visto. Aveva bisogno di sfogarsi con qualcuno. Automaticamente la sua mano cercò lo stereo. Era impensabile un viaggio senza musica, ma con sorpresa non trovò nient'altro che il vano dell'autoradio vuoto. Deluso, iniziò a tamburellare con le dita sul volante e presto si ritrovò a cantare con nostalgia e trasporto Paranoid dei Black Sabbath, così allegra, così triste. Drago, rientrato al palazzo apostolico, si aggirava tra le stanze silenziose dell'appartamento. Stava mettendo mentalmente in fila tutte le cose di cui avrebbe dovuto occuparsi. Già sentiva la mancanza di Mirko e si rendeva conto di avere bisogno di un assistente. Si arrestò come folgorato per dirigersi subito dopo correndo verso l'appartamento occupato dal segretario personale del Papa. «Dov'è? Dov'è Benny?» chiese spalancando senza complimenti la porta. Il segretario, seduto allo scrittoio e intento a studiare un documento, trasalì. Gli ci volle un consistente sforzo per riprendere a respirare regolarmente. «Castel Gandolfo, mio signore!» fu tutto quello che gli uscì dalla gola, improvvisamente secca come carta vetrata. «Bene, lo voglio qui al più presto. Digli di venire in elicottero!» «Certo, mio signore!» Come al solito la presenza di Drago lasciava senza molte parole coloro i quali erano stati goddati. Era una delle cose che iniziavano a dargli fastidio. Gli sembrava di avere a che fare con bambini timidi e timorosi, emozione del resto inevitabile davanti a un dio. «Prima però portami alla Radio Vaticana che devo dire un paio di cosette e mettere qualche canzone come si deve!» Il segretario si alzò lesto, tenendosi la tonaca con le mani per non inciampare, e si affrettò a uscire facendo strada al dio senza nome, che rideva divertito dietro di lui. Mirko aveva guidato per 200 chilometri e mancava ancora un bel pezzo di strada prima di arrivare alla città. Aveva fame e aveva bisogno di sgranchirsi le gambe. Rallentò, portandosi sulla corsia per i veicoli lenti. Aveva viaggiato per tutto il tempo sulla corsia di sorpasso spingendo la Mercedes al massimo. Non era abituato a guidare macchine così potenti e silenziose. Non avvertiva quasi la velocità, ma la tensione della guida lo aveva stancato comunque. Adocchiò l'insegna di un autogrill e imboccò lo svincolo trattenendo uno sbadiglio. Il parcheggio era affollato di macchine e viaggiatori. Mirko si diede uno sguardo nello specchietto retrovisore. Decise di indossare gli occhiali da sole anche se il cielo era coperto e prometteva pioggia. Per sicurezza si tastò la tasca della giacca assicurandosi che il mini devil fosse a portata di mano. Scese circospetto evitando di guardare negli occhi la gente e si infilò velocemente all'interno dell'autogrill. Tutto quello che desiderava era mangiare un boccone gustoso e tornare alla città senza imprevisti. Non voleva essere riconosciuto e costretto a recitare la parte dell'arcangelo, del dio o di chiunque altro. Gli mancava l'anonimato del suo vecchio io. Vide una pila di berretti con visiera e velocemente si infilò in testa il primo della catasta, calcandoselo bene sugli occhi. A fianco c'era un espositore di giornali. Gli cadde l'occhio su un titolo a grandi caratteri in prima pagina. ondata senza precedenti di suicidi nel sud Italia. Turbato lo prese e iniziò a leggere l'articolo. Continua l'impressionante serie di suicidi nelle regioni meridionali e in particolare in Campania, Calabria e Sicilia. Fonti ospedaliere delle forze dell'ordine riferiscono ormai di decine di nuovi casi ogni giorno. Le modalità con cui avvengono i suicidi sono le più disparate, data la difficoltà, per non dire l'impossibilità, di avere accesso a qualsiasi tipo di arma da fuoco. Fra i modi preferiti per commettere l'insano gesto troviamo l'autoimpiccagione, il lancio da edifici o da luoghi elevati, l'uso di binari del treno per lasciarsi travolgere. Dopo un iniziale sgomento, tuttavia, la reazione della popolazione locale è stata di gioia e giubilo. Voci non ancora confermate parlano infatti di un'altissima percentuale di malavitosi già noti alle forze dell'ordine tra i suicidi. In alcuni paesi ormai decimati sono addirittura nate spontaneamente delle feste popolari per celebrare a pulizia oppure a munnaria, come in questi luoghi viene chiamata l'ondata di suicidi. Mirko alzò gli occhi dal giornale, ripensando alle scene viste a Roma. L'appetito gli era improvvisamente passato. Iniziò ad avvertire un principio di nausea. A testa bassa si diresse alle casse, pagò il cappellino e sgattaiolò fuori in men che non si dica. Drago e il segretario del Papa camminarono fino alla piazza dove si trovava la sede della Radio Vaticana. Man mano che procedevano lungo la strada, chiunque li incontrava riconosceva il Dio. Si bloccavano stupefatti, seguendo con lo sguardo la passeggiata del senza nome. Erano così sbigottiti che scordavano persino di inginocchiarsi, mentre Drago avanzava compiaciuto, fischiettando indifferente un motivetto improvvisato. «Mio signore, ecco la sede della radio», disse infine il segretario dinanzi a un edificio anonimo e senza insegne. «Bravo, ragazzo! Ora vai a dire a Benny di tornare subito a casa e ricordati dell'elicottero. Certo, mio signore!» concluse all'unisono con il segretario, che lo osservò imbarazzato e sconcertato prima di correre via. Sorridendo e scuotendo la testa, Drago entrò nello stabile e, seguendo il corridoio, raggiunse le scale dove trovò le indicazioni per la sala di trasmissione. Spalancò la porta senza bussare e la reazione dei presenti fu uguale a quella dei passanti per strada. Rimasero bloccati nella posa del momento. Ad alcuni la mandibola apparve letteralmente sganciarsi e cadergli sul petto. Drago li guardò senza parlare e si sedette davanti al grande mixer, mentre gli altri gli facevano spazio, timorosi. Osservò con cura i cursori, intuendone con l'esperienza la funzione. Ne abbassò lentamente due e la musica diffusa nella stanza sfumò gradualmente. «Cari fratelli, care sorelle», disse nel microfono, imitando perfettamente la voce del pontefice e reprimendo un accesso di risa. «Vi ho portato un po' di musica decente, ya? L'ora della meditazione richiede una colonna sonora adatta». Tirò fuori dalla tasca della giacca un CD. Era la sua copia da collezione di Metal Machine Music di Lou Reed. Da tempo voleva regalarla a Mirko e ora non poteva resistere alla tentazione di trasmetterla su scala mondiale. Infilò il CD nel lettore, premette il tasto play e si avviò verso l'uscita mentre i primi suoni straziati dilaniavano i timpani di miliardi di ascoltatori in tutto il globo. Era una vita che lo volevo fare. Rinfrancato dalla marachella, tornò sui suoi passi per aspettare il ritorno del pontefice. Ora avrebbe potuto pensare più serenamente alle cose serie.